Mileva Maric Einstein. La storia di Mileva, la prima moglie di Einstein, è davvero triste e spezzacuore. Accanto a quella di altre grandi donne bistrattate dal sistema patriarcale come Camille Claudel, Colette o Evita Perón, Mileva rappresenta con la sua persona e la sua vita lo stereotipo dell'ingiustizia, di come un uomo, ma attraverso di lui tutto il sistema patriarcale, abbia rubato il lavoro della sua donna, se lo sia intestato, ne abbia tratto fama e onore e contestualmente abbia ripudiato la donna che aveva partorito, sì, usiamo proprio questa parola che è adatta alle donne, l'idea. Di recente il regista svedese Björn Lennart Runge ha diretto un film dal titolo The Wife, adattato dall'omonimo romanzo di Meg Wolitzer e interpretato dalla pluripremiata Glenn Close. Il film in Italia è uscito col titolo Vivere nell'ombra, per allontanare il più possibile nel nostro paese patriarcale il significato espresso dal titolo, cioè la moglie. Questo è il significato letterale del termine nel titolo inglese The Wife. Il film, che parla di una donna che scrive in anonimato i libri per cui il marito è famoso e vince il Nobel, è diventato la bandiera di tutte le donne che nei secoli hanno lavorato nell'ombra per consegnare ai loro mariti o compagni il frutto della loro arte, affinché gli uomini e non le donne creatrici venissero osannati e premiati. Mileva è una di queste, è una moglie che ha vissuto nell'ombra e ora noi vogliamo raccontare la sua storia e per quel che ci è possibile contribuire a darle la visibilità che merita e che in vita le fu negata. Mileva nacque nel 1875 in Serbia, all'epoca parte dell'impero austro-ungarico, e come altre donne che si dedicarono alla scienza nel 1900, ricordiamo Marie Curie, sua figlia Irene e altre, era moglie di uno scienziato. In generale, solo questo permetteva loro di avere accesso alle biblioteche e ai laboratori. Ma Mileva, diversamente dalle altre mogli che condivisero i premi coi mariti, quantunque il merito fosse in gran parte solo loro, essendo la moglie dell'icona della scienza per eccellenza, Einstein appunto, nonostante i suoi meriti personali e lo spazio che si guadagnò nel mondo universitario per la sua competenza, è stata completamente ignorata e misconosciuta fino ad oggi. La nostra missione ci obbliga a raccontare una storia completamente differente da quella che scrissero i primi biografi di Einstein. La storia di Mileva viene recuperata oggi, un secolo dopo la sua dipartita, ed è uno specchio di quello che fu il ruolo delle donne nella scienza, le ombre dei loro uomini, proprio come recita il titolo del film. La famiglia di Mileva era benestante, il padre ufficiale dell'esercito decise di assecondare le qualità della figlia e dopo gli studi primari riuscì ad avere un permesso speciale affinché Mileva potesse studiare fisica e matematica, all'epoca strettamente accessibili solo ai maschi. Lei fu tra le prime donne dell'impero austro-ungarico a sedersi nei banchi riservati ai maschi, che la prendevano in giro per questo, sebbene lei fosse la migliore del corso. Ben presto si sarebbe trasferita in Svizzera, paese permissivo e aperto dove le donne potevano studiare, frequentare l'università e muoversi liberamente, e dove trovarono ospitalità anche altre donne desiderose di libertà, Rosa Luxemburg, Sabina Spierrein e Isadora Duncan. A Zurigo, Mileva era una delle sole 5 donne iscritte al Politecnico. Era sola e isolata, non solo perché aveva scelto un campo di studi, la fisica sperimentale, in cui non c'erano donne, ma anche perché proveniente da un paese che ancora si trovava sotto il giogo ottomano. Ben lungi dal farsi intimidire, nella sua stanza Mileva organizzava riunioni di studenti per dibattere problemi scientifici e filosofici e suonare musica classica. Aveva 21 anni quando conobbe il 17enne ebreo tedesco Albert Einstein, appena entrato al Politecnico. Si ritrovarono a frequentare lo stesso corso, a suonare insieme e a frequentare gli stessi amici. E sbocciò l'amore. Facevano i compiti insieme e Mileva correggeva pazientemente quelli di matematica di Albert perché era più brava di lui. Erano sempre insieme, condividevano appunti, scoperte, quaderni e... Sì, dopo un po' condivisero anche il letto. Nella residenza studentesca di Zurigo, Lui si trasferì praticamente a vivere nella stanza di lei. Erano anni di grandi scoperte. Nel 1895 furono scoperti i raggi X, di cui si servì Marie Curie nella creazione dell'autoambulanza. 2 anni dopo la stessa Marie scoprì il polonio e nel 1902 isolò il radio e scoprì ufficialmente la radioattività. Come Marie, ossessionata dal cercare nella peat-blenda minerali sconosciuti, Mileva, osservando il brillio dei tronchi galleggianti sull'acqua e ricordando il liquore sopra le miniere nella sua città, divenne ossessionata dal trovare una formula per fissare la trasformazione della materia in energia. La capacità che le donne hanno in abbondanza di collegarsi con sicurezza ai mondi invisibili fa parte del bagaglio femminino di utilizzo dell'emisfero cerebrale intuitivo, non logico. A guidare Maria Sklodowska-Curie e Mileva Marić-Einstein fu la stessa percezione della luce e della vibrazione intorno alla materia, vibrazione che agli occhi delle donne non sfugge. Le intuizioni sul collegamento tra materia ed energia provennero da Mileva, che le condivise con Albert, come documentato nelle sue lettere. E quando Albert si accorse che Mileva era in grado di tradurre le sue intuizioni in formule matematiche, non si allontanò più da lei. Furono anni meravigliosi per Mileva, ma divennero difficili a causa della madre di Einstein, che si opponeva strenuamente al matrimonio del figlio con una donna non ebrea, per la quale aveva sviluppato un particolare odio. Mileva inoltre rimase incinta e per questo si laureò un anno dopo Albert. La bambina fu data in affidamento in quanto i due non erano sposati e di lei non si seppe più nulla. I due vivevano e lavoravano insieme e usavano lo stesso quaderno per gli appunti e le scoperte. Mileva, la cui tesi di laurea aveva per argomento proprio la relatività, stava volentieri nell'ombra, felice e orgogliosa che fosse Albert a raccogliere gli allori, e felice di continuare a correggere le pagine di matematica di lui. Quando il famoso professor Weber accettò la candidatura di Mileva al dottorato e la richiese come assistente, rifiutando viceversa quella di Albert, che considerava non all'altezza, lei rifiutò, condizionando la sua presenza all'accettazione del suo compagno. Fu la prima delle tante rinunce che Mileva accettò di buon grado per amore di Albert. Aveva cominciato a sacrificare la sua carriera per quella di lui. Le lettere che Mileva e Albert si scambiavano erano piene di formule matematiche sulla teoria che volevano impostare. Eppure, in seguito, nella sua autobiografia, Einstein appena nominò Mileva e solo come sua prima moglie, mai come sua coautrice e partner di ricerca, e cancellò sistematicamente ogni traccia del contributo di Mileva. Tra le sue carte non furono mai trovate le centinaia di lettere che Mileva gli scrisse, la loro vita insieme proseguì per circa un decennio, a cavallo tra fine 800 e inizio 900. La coppia si trasferì a Berna e alla morte del vecchio Einstein, che si opponeva al matrimonio, Albert sposò Mileva. Mentre Albert lavorava all'ufficio brevetti per mantenere la famiglia, lei sviluppava la teoria, le formule e le ricerche nel più totale silenzio e anonimato. La teoria della relatività nacque in quegli anni e proprio quando Albert, a causa del lavoro di ufficio, aveva pochissimo tempo da dedicare alla ricerca. Viene dunque spontaneo pensare che sia stata lei a portarla avanti. In tedesco, Einstein significa una pietra, Einstein. Mileva era solita dire che lei e Albert erano Einstein, una sola pietra, e che dunque era ininfluente che lei rivendicasse e firmasse il suo lavoro. Questa fiducia e generosità le costarono molto care. Quando finalmente il loro lavoro venne alla luce e solo Albert fu insignito del Nobel, a quel punto tutti lo volevano, tutti lo adoravano, e lui cominciò ad allontanarsi da lei. Quando ad Albert fu offerta la cattedra di fisica dell'Università di Zurigo, i due si trasferirono e mentre lui andava alle riunioni, lei stava a casa a occuparsi dei due figli, di cui il secondo, appena nato, era schizofrenico, preparava le lezioni per il marito e teneva la corrispondenza con gli altri scienziati. Rinunciò completamente alla sua carriera. Durante molte decadi non ci fu possibilità di trovare prove documentali che confermassero la coautoria di Mileva nella teoria della relatività di Albert Einstein, ma alla morte del figlio maggiore Hans nel 1985, la corrispondenza tra sua madre e suo padre, che era in suo possesso e non era stata ancora bruciata dal padre o confiscata dai suoi segretari per preservare l'immagine di Albert Einstein, cominciò a circolare e portò a galla la verità su Mileva e sul ruolo fondamentale che ebbe nell'opera e nella fama di Albert. Le testimonianze furono pubblicate dalla neurologa Elisabeth Einstein, moglie di Hans, e contraddicono completamente l'immagine che i primi biografi di Einstein diedero di Mileva, che ritrassero come una donna sciatta, disordinata, depressa e incapace di stare a fianco di un uomo che aveva bisogno di pace per la sua ricerca. Evidentemente la corruzione e l'omertà mediatica è un costume di vecchia data. La lealtà dei media ancora una volta sostenne la narrazione patriarcale e nello specifico la necessità di salvare la faccia di Einstein per aver abbandonato moglie e figli. Quando la grande preparazione scientifica di Mileva e la sua generosità hanno cominciato a venire a galla, è contestualmente iniziata la messa in discussione dell'effettivo valore del mito di Einstein e soprattutto la sua disumanità, in quanto, come vedremo, per sposarsi con la sua ricca cugina, abbandonò senza mezzi Mileva coi due figli, di cui uno, appunto, il secondo, schizofrenico, e Mileva ne fu spezzata. La nascita di questo secondo figlio, che Mileva curò da sola in casa e che le impedì da quel momento di fare qualunque altra cosa, portò acqua al mulino della madre di Albert, che dall'inizio si era opposta al matrimonio, che vide trionfalmente confermata la sua previsione funesta. Da quel momento Albert si allontanò da Mileva, accettò una cattedra in Germania, lasciò lei in Svizzera senza mezzi e iniziò la relazione con la cugina Elsa, approvata dalla madre di lui. Di fatto risulta che le geniali teorie per cui Einstein è diventato l'archetipo stesso dello scienziato furono da lui pubblicate proprio negli anni felici del matrimonio e della collaborazione con Mileva, quando nelle lettere lui stesso dichiarava di non poter fare a meno della moglie che risolveva i suoi problemi matematici. Da un'altra lettera risulta che Mileva, non Albert, mantenne corrispondenza col fisico Max Planck, corrispondenza in cui gli descriveva la sua curiosità scientifica per la relazione tra la velocità degli atomi e la distanza che intercorreva tra le loro collisioni, argomento che poi entrò nella teoria che valse il Nobel ad Albert. Dalle lettere scampate alla distruzione risulta non solo che la ricerca era congiunta, già che entrambi parlano del nostro lavoro, ma anche che in seguito Mileva fu maltrattata psicologicamente e anche fisicamente insieme ai figli. Di fatto la teoria della relatività fu pubblicata a nome del solo Albert e la tesi di laurea di Mileva, che provava come la teoria sulla relatività fosse un suo lavoro, fu ritirata dagli archivi del Politecnico. Citiamo un estratto da una lettera di Albert a Mileva, scampata alla distruzione, nel quale lui elenca gli obblighi che le impone. Primo, dovrai assicurarti di mantenere la mia biancheria e quella dell'appartamento in buono stato, servirmi tre pasti nella mia stanza, mantenere la mia camera da letto e lo studio puliti, e deve essere chiaro che la mia scrivania è per mio uso esclusivo. 2. Rinuncerai a qualunque tipo di relazione personale con me nella misura che non sia strettamente necessaria per ragioni sociali. In concreto, rinuncerai a sederti in casa vicino a me, passeggiare o viaggiare insieme a me. 3. Dovrai tenere in conto i seguenti punti. Non avremo relazioni intime e non mi rimprovererai nulla. Smetterai di parlarmi se te lo chiedo. Lascerai la mia camera da letto o lo studio immediatamente senza protestare se te lo chiedo. 4. Ti impegnerai a non disprezzarmi e a non svalutarmi davanti ai nostri figli, sia con le parole che con i fatti. Mileva ne fu distrutta. E rimase a letto per 3 anni, incapace di comprendere il perché di tale voltafaccia e incapace di reagire. Come risulta evidente, Albert non si limitò ad abbandonarla, ma fece di lei la sua nemica. Alcuni dicono per silenziare il senso di colpa o il terrore che lei potesse raccontare la verità e documentarla. Come scuola delle donne onoriamo e riconosciamo questa grande antenata, non tanto e non solo per il suo contributo scientifico, che non siamo in grado nemmeno di comprendere appieno, quanto per essere stata un'ennesima vittima della violenza patriarcale, che ad oggi è ben lontana dal cessare.